Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Al mese in meno per i deputati e nei prossimi 3 anni la Camera ridurrà tutte le spese. Al Senato la riforma dell'università, speriamo si trovino poi soldi per attuarla, dice il relatore di maggioranza Valditara. Barracuda a Genova, polipi giganti in Sicilia, che sta succedendo al nostro mare? Comincia bene l'Italia agli Europei di Atletica di Barcellona, argento per l'azzurro Alex Svazer. In primo piano dunque la manovra, come avete sentito dai titoli. Ci colleghiamo dunque subito con Roma, con la Camera dei Deputati e con il nostro Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Pochi minuti fa il governo ha chiesto la fiducia sul maxi emendamento che di fatto accorpa la manovra economica e che ha già ricevuto il via libera del Senato. La fiducia si è resa necessaria, spiegano da Palazzo Chigi, in quanto il decreto correttivo dei conti pubblici è in scadenza a fine luglio. Il voto arriverà domani. Terminata intanto anticipatamente la discussione generale, l'aula della Camera ha esaurito in precedenza anche il complesso degli emendamenti. Per evitare qualsiasi sorpresa la maggioranza si è presentata al completo, ha presenziato ai lavori qui a Montecitorio anche il Presidente del Consiglio Berlusconi, che tra l'altro si è intrattenuto con il Ministro dell'Economia Tremonti. La Camera dei Deputati ha intanto attuato in pieno l'indicazione prevista dalla manovra sul taglio degli stipendi dei parlamentari. L'Ufficio di Presidenza ha stabilito che il taglio complessivo sarà di 1.000 euro netti al mese, 500 euro arriveranno dalla diaria di soggiorno, oggi pari a circa 4.000 euro, altri 500 dalla somma destinata al rapporto eletto-elettore. I famosi 4.190 euro appannaggio dei cosiddetti portaborse. Il Senato deciderà riduzioni simili questo giovedì. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Capitolo Fiat alla vigilia del tavolo torinese, governo, azienda, sindacati. Domani il numero uno del Lingotto, Sergio Marchionne, è atteso al tavolo convocato dal ministro del lavoro Maurizio Sacconi a Torino presso la sede della regione Piemonte. Obiettivo discutere delle prospettive degli stabilimenti italiani di Fiat. E giovedì potrebbe esserci un primo vertice sui nuovi contratti e la possibile costituzione di una new co per Pomigliano. Secondo indiscrezioni non confermate riportate da alcuni giornali, l'azienda potrebbe annunciare lo scenario della disdetta del contratto nazionale dei metalmeccanici, lasciando Federmeccanica e in seguito riassumere i lavoratori campani sulla base di nuove regole. La partita è più che mai aperta e sono ottimista, afferma il ministro Sacconi. Il confronto sul piano industriale per l'Italia, spiega Sacconi, va portato avanti con la consapevolezza che la posta è ancora più alta e conclude, va gestito in termini utili al nostro interesse nazionale. Anna Marino, GR24, il sole 24 ore. Oggi nuova giornata di interrogatori per l'inchiesta sulla nuova P2 e comincia intanto proprio in questi minuti la seduta comune di Camera e Senato per l'elezione dei membri laici del CSM. Ci colleghiamo con Raffaella Calandra. E sarà un fioccare di schede bianche da maggioranza e opposizione, ma il quorum oggi si abbassa e l'intesa quindi si avvicina. Quinta seduta congiunta del Parlamento per l'elezione degli 8 membri laici del CSM. Dopo una riunione, come già ieri la maggioranza, anche il PD oggi fa sapere che voterà in bianco perché il centrodestra non è pronto, commenta Anna Finocchiaro. Il nodo resta la poltrona del vicepresidente e le trattative dell'ultima ora, con un incontro anche tra Casini e Cicchitto, puntano a far convergere il consenso sul centrista Michele Vietti, un nome più gradito anche ad una buona fetta dei magistrati togati rispetto ad Annibale Marini, indicato per ora dalla PDL. L'indicazione è comunque cercare di chiudere la partita entro la scadenza naturale a fine mese del vecchio Consiglio, e questo anche per le roventi polemiche targate nuova P2 che l'hanno avvolto negli ultimi giorni per nomine di magistrati importanti. Sono anche queste quelle scelte istituzionali su cui la loggia, secondo il Tribunale del Riesame di Roma, era in grado di interferire attraverso una rete di amicizie. Rete che poteva contare sull'appoggio di politici come Verdini o Dell'Utri, scrivono ancora i giudici. E dopo l'interrogatorio fiume del coordinatore del PDL di ieri, nel pomeriggio a Piazzale Clodio tocca al senatore Dell'Utri, anche lui indagato. Vi racconteremo come andrà l'interrogatorio. Grazie Raffaella. Dopo dunque, intanto andiamo avanti con i lavori parlamentari, perché al Senato è in corso la discussione generale sulla riforma delle università, con la votazione di oltre 400 emendamenti. Ricercatori solo per 6 anni, rettori al massimo per 8, pensione per i docenti a 70 anni sono fra i punti della riforma. Al microfono di Maria Chiara Grandis, il relatore del Popolo della Libertà, Giuseppe Valditara. Io credo che 70 anni sia un buon compromesso. Voglio anche precisare un fatto che non è ancora entrato nel dibattito. I professori universitari entrano in ruolo relativamente tardi rispetto ad altri lavoratori. Io penso ad un ricercatore che difficilmente prima di 32, 33, 35 anni talvolta è entrato in ruolo. E allora è evidente che se noi dovessimo pensionarli a 65 anni, anche indennità pensionistica sarebbe notevolmente ridotta e quindi avrebbero rispetto a tutti gli altri lavoratori un evidente pregiudizio. Credo che sia assolutamente importante che dopo aver approvato una riforma così importante, così strategica per l'università italiana, quella che noi stiamo discutendo, in autunno il governo individui le risorse sufficienti perché l'università italiana possa avere un futuro all'altezza di questa riforma. BP ha deciso di accantonare 32,2 miliardi di dollari per far fronte ai costi della catastrofe della marea nera nel Golfo del Messico. Cambio intanto ai vertici della società. Il direttore generale Tony Hayward a ottobre verrà sostituito dall'americano Bob Dudley. Il mondo si rovescia. Il primo ministro inglese David Cameron in India a caccia di contratti. Riparte da Bangalore il passaggio in India di David Cameron, che riporta il leader di un governo conservatore nel subcontinente. Il clima è ormai lontano dall'esotismo alla Kipling, dai turbamenti della Mrs. Murdy Forster. I risentimenti inespressi tra colonizzatori e colonizzati restano indietro, sulla spinta di un'attualità che chiede iniziativa e senso pratico. Visita d'affari e di politica sintonizzata al XXI secolo e dunque con delegazione britannica a prova di suscettibilità indiana. Sei ministri e 60 top manager sono la risposta di Cameron alla stampa indù, che ha criticato l'atteggiamento soft imperiale dei passati governi. Accettato il fatto che gli ex governati sono i nuovi capi, Londra vuole tamponare l'emorragia culturale ed economica che favorisce gli interessi degli Stati Uniti a svantaggio di quelli del Regno Unito. Per Cameron si tratta di ricostruire su nuove basi un rapporto antico che oggi poggia su un giro d'affari che solo per gli indiani britannici vale oltre 12 miliardi. Prima degli appuntamenti politici previsti per giovedì a Delhi, la delegazione esplora il Bangalore, centro scientifico d'eccellenza e capitale dell'IT. Partenza dalla HAL, che significa aeronautica civile e militare, poi Infosys, colosso dei servizi informatici, 120.000 dipendenti solo in India, proprietaria nel campus di Mysore della più grande università d'impresa del mondo. Gigi Donelli, GR24, Sole 24 Ore. Il sindaco di Duisburg ha negato di essere stato avvertito in anticipo dei rischi per la sicurezza legati alla Love Parade, durante la quale, come sapete, 20 persone sono morte. Fra le vittime, lo ricordiamo, anche una ragazza italiana. Ma sentiamo il racconto di un'altra italiana, di Fanni, 20 anni, di Forlimpopoli, era a Duisburg anche lei sabato. Non ce la facevi a respirare perché eravamo appiccicatissimi tutti. Si era creata una voragine perché un gruppo di ragazze sono svenute e quando loro sono svenute e cadute per terra, questa voragine si è sempre più allargata, quindi quando tu passavi da questa voragine cadevi per forza e proprio c'erano gli strati di gente morta per terra, gente morta, svenuta, collassata. È una roba atroce. Ho preso la mia amica che era lì, sono riuscita a tirarla fuori, non so con quale forza, e in quel momento sono cascata sopra, per dire, un ragazzo che aveva praticamente il cranio spappolato. E oggi nel nostro sondaggio vi chiedevamo se manifestazioni di questo genere debbano essere vietate per legge. Hanno vinto i sì con il 55% di preferenze. Di questa canzone di Gregorio Bellocco, che non è un cantante o un musicista, ma è un boss con lobby della composizione e della poesia. Uomo di vertice dell''Ndrangheta, inserito nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi, è stato arrestato nel 2005. Alcuni dei suoi testi, musicati e diffusi su YouTube, sono stati usati dagli inquirenti che oggi hanno arrestato una decina di affiliati alla cosca e sequestrato fabbricati appezzamenti agricoli. E queste invece sono le indagini sui giri di coca nei locali notturni di Milano. Ma che ti schemi sull'altra sera all'Hollywood, fratello? Perché io vado sempre a ballare all'Hollywood, una discoteca troppo bella. Bella e molto frequentata, soprattutto dai VIP, la discoteca Hollywood, insieme all'altro locale simbolo della movida milanese, il The Club, è sotto sequestro dall'altra notte. I tre gestori avrebbero agevolato all'interno l'uso di cocaina che, consumata abitualmente nei bagni, sarebbe stata servita delle volte nei privé e addirittura al tavolo. 19 gli indagati nell'inchiesta partita da una costola di Vallettopoli, 5 gli arrestati ai domiciliari, tra cui 2 funzionari pubblici. Aldo Centonze, dell'ufficio del Magno nel Comune, e Rodolfo Citterio, membro della Commissione Comunale di Vigilanza, avrebbero agevolato l'apertura dei locali e avvertito di eventuali controlli. Dopo la notizia, il sindaco di Milano, Letizia Moratti, ha promesso un giro di vite sulle procedure di apertura dei locali di pubblico spettacolo e oggi ha confermato la linea di rigore nei riguardi di quei dirigenti e funzionari del Comune che risulteranno effettivamente coinvolti nel giro di mazzette e droga in discoteca. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. E quest'anno dovranno fare a meno della musica dei locali simbolo della Milano modaiola, quanti arriveranno a settembre per la settimana della moda, che quest'anno torna settimana, cioè 7 giorni di sfilate, alla faccia del diktat di Anna Vintour, potente direttrice del settimanale Vogue America. Il sindaco di Milano Letizia Moratti e il presidente della Camera della Moda Mario Boselli non hanno esitato a definirla una rivoluzione copernicana. Che si tratti di un cambiamento importante, il primo da 30 anni a questa parte, non c'è dubbio. Da settembre la tradizionale settimana della moda femminile sarà completamente diversa. Il format, battezzato Milano Fashion City, verrà poi applicato all'altra settimana della donna in febbraio e alle 2 dedicate all'uomo in gennaio e giugno. Cuore delle sfilate sarà Palazzo dei Giure Consulti, messo a disposizione dalla Camera di Commercio, che insieme a Comune e Camera della Moda è riuscita a unire oltre 50 soggetti e a mettere in pratica il sogno di fare sistema, almeno all'interno della filiera della moda abbigliamento. Il sindaco Moratti ha ricordato che il settore vale l'11% del PIL dell'Italia e occupa oltre 1 milione di persone, mentre l'assessore alla moda del Comune, Giovanni Terzi, ha sottolineato che per il capoluogo lombardo i numeri sono ancora più importanti. Il 21% del PIL della città viene dalla moda. Cifre confermate da uno studio commissionato a Bain & Company, che ha calcolato un indotto economico complessivo per Milano legato alla moda di 11 miliardi di euro all'anno. Giulia Crivelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Un calamaro gigante, 2 metri di lunghezza e quasi 13 kg di peso, è stato pescato nel Messinese. In Liguria, una ragazza sul materassino è stata pizzicata da un barracuda. Che cosa sta succedendo al nostro Mediterraneo? Sentiamo Silvia Cocito, esperta biologa del Centro Enea di Santa Teresa, in provincia di La Spezia. Il Mediterraneo è sicuramente un mare che si sta scaldando e ci sono ovviamente le prove dal punto di vista scientifico e le previsioni sono anche di un ulteriore riscaldamento negli anni futuri. E questo in conseguenza sta provocando tutta una serie di risposte di quello che è la componente biologica, con un cambiamento degli areali di distribuzione di molte specie e uno spostamento verso nord di molti organismi, soprattutto ad esempio delle specie ittiche che hanno la capacità di muoversi attivamente all'interno delle masse d'acqua. E siamo allo sport, al russo Stanislav Emelianov, la medaglia d'oro nella 20 km di marcia agli europei di atletica iniziati oggi a Barcellona, l'argento è andato al nostro azzurro Alex Schwarzner, che ha parlato così ai microfoni Rai dopo l'impresa. Sono partito al mio ritmo come volevo, ma un ritmo dove sapevo che alla fine potevo ancora aumentare, però non sapevo bene come sta con il russo, no? Perché non ci ho mai gareggiato contro, poi mi è mancata un po' la brillantezza, ecco, il ventista mi è un po' mancato andare a riprenderlo, però comunque sono contento perché secondo va bene e adesso devo recuperare per la 50. Questa era la voce dunque di Alex Schwarzer, io vi saluto, prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.